English Bit di Giulia Crivelli. Time. Is it time to buy a car? Car makers are hoping for a coronavirus silver lining. È la pagina di approfondimento di Financial Times di qualche giorno fa, che il quotidiano chiama FT Big Read, e si intitolava: è arrivato il momento di comprare una macchina? Le case automobilistiche sperano che ci sia un aspetto positivo nel coronavirus. La prima parola che ci interessa è time, letteralmente significa tempo, ma in inglese è ancora più versatile che in italiano. Un primo uso è quello che ne fa il titolo del giornale britannico. Altri esempi in cui time assomiglia più a volta, momento, ora sono questi. Every time I hear that song, I feel happy. Ogni volta che ascolto quella canzone, mi sento felice. Next time you come to Milan, we could have lunch together. La prossima volta che viene a Milano, potremmo pranzare insieme. It's time you go. È arrivato il momento che tu te ne vada. What's the time? I forgot my watch and my smartphone. Che ora è? Sono senza orologio e senza cellulare. E vediamo invece la traduzione letterale. It takes time to make changes in the law. Ci vuole tempo per cambiare le leggi. What a waste of time. Che perdita di tempo. Time's up. Have you worked out the answer yet? Il tempo è finito, scaduto. Sei riuscito a capire qual è la risposta? Times have changed since our grandparents were young. I tempi sono cambiati rispetto a quando i nostri nonni erano giovani. His injuries will take a long time to heal. Ci vorrà molto tempo perché le sue ferite guariscano. Poi ci sono gli idiom, molti dei quali simili a espressioni che usiamo anche in italiano. They are working against time to try and get people out of that trap alive. Stanno combattendo con il tempo, contro il tempo, per cercare di far uscire quelle persone vive da quella trappola. The letter was in the pocket all the time. I simply forgot it and spent hours looking for it all over the house. La lettera è rimasta per tutto il tempo nella mia tasca, solo che me ne ero dimenticato e l'ho cercata per ore in casa. Our representatives are ready to help you at all times. I nostri addetti sono pronti ad aiutarti in ogni momento, diremmo in italiano. She was laughing and crying at the same time. Rideva e piangeva allo stesso tempo. 9 times out of 10 she gives the right answer. 9 volte su 10 dà la risposta giusta. C'è anche qualche false friend. From time to time non vuol dire di ora in ora, bensì qualche volta. Ogni tanto. She has to work at weekends from time to time. Capita che debba lavorare nel weekend. Tornando al titolo di Financial Times, è interessante l'espressione silver lining. Letteralmente significa rivestimento in argento, ma in realtà vuol dire il lato inaspettatamente positivo di qualcosa. What do you think is the silver lining of this pandemic, if any? Quale pensi sia il lato positivo di questa pandemia, ammesso e non concesso che ce ne sia uno?